Dopo l'accordo con i cattolici, Walter Veltroni lancia le candidature di precari e operai, mentre ribadisce quella di Paola Concia, rappresentante del mondo gay. Il segretario del PD si difende dall'accusa di strappo con il mondo omosessuale. È colpa della cattiva informazione, dice Veltroni, nel giorno in cui presenta tre nuovi nomi: un'impiegata della ASL, un'addetta di un call center e un operaio della Thyssen. Il Partito Democratico vuole portare in Parlamento forze ed energie della società, vuole portare persone che lavorino, che siano parte della vita reale del paese. Loredana Ilardi, precaria, spiega i problemi di un giovane che lavora in un call center. La situazione di una precaria, una precaria che ha 600 euro al mese, lavorare a metà, non avere la possibilità di poter crearsi una famiglia, non avere la possibilità di guardare un futuro. Io vengo da una terra dove anche un call center rappresenta l'alternativa. In sostanza, dice Veltroni, il Partito Democratico è il partito del lavoro, ma la sinistra arcobaleno attacca. Fausto Bertinotti risponde con una battuta: non si può mettere un confine alle aspirazioni. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.